fatto accaduto, come dici te, il 29 luglio del 2015, quando Mauro perde la vita sparato da un maresciallo dei carabinieri. Praticamente nel documentario ripercorriamo l'ultimo giorno di vita di Mauro, il giorno in cui Mauro viene accerchiato da 8 carabinieri che vogliono fargli un TSO, diciamo, non legittimo. Viene messo sotto assedio in casa sua per diverse ore, stiamo parlando di luglio, quindi c'erano più o meno quasi 40 gradi quel giorno. Dopo diverse ore che Mauro viene messo sotto assedio, prende, scappa in mutande per il paese, fino a quando arriva in questo campo, dove poi là c'è una colluttazione con un carabiniere e il maresciallo espone un colpo e Mauro perde la vita. Non è la prima volta, Dario, che tratti questo tema così delicato delle morti di Stato. Che cosa ti spinge a parlarne? Era successo una prima volta diversi anni fa, perché era successo un caso nel mio paese di origine, e quindi mi sentì di dover realizzare qualcosa per parlare di questa storia del ragazzo che si chiamava Massimo Casalnuovo. Dopodiché mi sono trovato un po' in mezzo a questa tematica e ho seguito diversi casi, diverse storie, un po' prima con l'associazione ACAD, ho realizzato diverse interviste a familiari, a genitori, a fratelli, sorelle, persone coinvolte nelle morti di Stato. Poi mi è stato chiesto successivamente, nel caso di Mauro, se volessi occuparmi di diversi documentari proprio sulle morti di Stato, e mi era stato proposto la storia di Mauro. È stato, diciamo, un discursus un po' particolare, perché la cosa era nata che dovevo farlo con l'associazione Stefano Cucchi. Poi la cosa, diciamo, che è saltata, solo che io ho già conosciuto la famiglia di Mauro e non me la sono sentita di dirgli di no, quindi di rinunciare al progetto, a raccontare la storia, e quindi poi siamo andati avanti. Certo. Ti volevo chiedere, Dario, com'è avvenuta la raccolta, diciamo, dei materiali? Come sei riuscito a raccontare l'ultimo giorno di vita di Mauro Guerra? Praticamente noi, come dicevo nel documentario, raccontiamo in gran parte l'ultimo giorno di vita di Mauro. La cosa sì che più fa specie è che i filmati sono i filmati che hanno girato stesso i carabinieri con il cellulare, perché loro durante quella giornata scendevano ogni tanto, registravano delle immagini, dei video con il cellulare nel taschino, e quindi tutti i video che ci sono sono video girati stesso da loro. Poi parte è il racconto della famiglia di Mauro e in parte dei diari, dei quaderni di Mauro che abbiamo trovato, che abbiamo letto. Mauro era un ragazzo che comunque aveva delle grandi passioni, amava dipingere, scriveva, e quindi un po' attraverso tutti questi racconti abbiamo cercato di capire, di raccontare la figura di Mauro. Senti, Dario, dove è possibile visionare il tuo documentario? Allora, purtroppo, dato il periodo che stiamo vivendo, non siamo ancora riusciti a fare una prima in Italia. L'intenzione era, noi abbiamo praticamente l'abbiamo finito di produrre all'inizio della prima pandemia, a marzo-aprile 2020, e dopo avremmo voluto partecipare a dei festival anche con la famiglia, in modo da promuoverlo e da far conoscere la storia. Ciò non è stato possibile perché, come sappiamo, poi c'è stato il blocco totale, molti festival sono stati annullati o comunque sono stati ridotti, quindi ci piacerebbe partecipare, fare una prima in Italia e partecipare a qualche festival, anche qualche festival sul sociale, sui diritti umani, ma ciò non è stato possibile. Adesso siamo ad un festival a Barcellona che si chiama Impact, che è il festival dei diritti umani della Catalunya, che però purtroppo è visibile solamente in Spagna, è online ma è visibile solamente in Spagna. Noi contiamo di fare, appena riapriranno i cinema e gli spazi all'aperto, di riuscire a fare una prima, una proiezione in Veneto, Padova, pensiamo, con la famiglia e con le associazioni che hanno supportato il documentario, che sono Amnesty e A Buon Diritto. Poi sì, sarebbe bello poter partecipare a qualche festival in Italia.